English Bit di Giulia Crivelli. Spring cleaning. Let go of need to be right and 9 other ways to give your brain a spring cleaning. Rinunciate alla necessità di aver ragione e 9 altri modi di fare le pulizie di primavera nel vostro cervello. Si intitolava così un articolo apparso qualche giorno fa sul Washington Post, a metà tra costume, società e benessere. La prima espressione che ci interessa è spring cleaning, dove il gerundio del verbo to clean, un verbo regolare to clean, cleaned, cleaned, viene usato come sostantivo, il pulire, e quindi pulizia di primavera. Come variante esiste anche to spring clean, fare le pulizie di primavera. I decided to spring clean my apartment and asked my sister to help me. Ho deciso di fare le pulizie di primavera nel mio appartamento e ho chiesto a mia sorella di aiutarmi. Ma torniamo all'articolo, che parla di pulizie non fisiche ma mentali. Il primo consiglio è mind your own business, fatti gli affari tuoi. Il secondo, molto più originale, let go of the need to be right, che dà il titolo all'articolo. To let go of something è appunto la capacità di distaccarsi da qualcosa o da qualcuno. Dei tanti usi di let ci occuperemo magari in un prossimo English Bit. Per oggi citiamo ad esempio un phrasal verb, to let down, che significa deludere. E siamo al terzo consiglio, stop blaming, shaming and complaining. Smettete di dare colpe, indignarvi e protestare. Notiamo come il gerundio in inglese sia usato dove in italiano utilizziamo di più l'infinito. Una delle tante sottigliezze che fanno capire quanto bene conosciamo l'inglese. Se dicessimo stop to blame, traducendo letteralmente dall'italiano, tutti capirebbero quello che vogliamo dire, ma capirebbero anche che non ci interessano, o almeno non conosciamo, le sfumature dell'inglese. Ed eccoci al quarto consiglio. Stop trying to please and impress everybody. Smettete di provare a compiacere e fare una buona impressione a tutti. Quinto consiglio, clean up unfinished business, chiudete le cose che avevate in sospeso. 7. If you are in the wrong, make it right. Se state sbagliando, se siete dalla parte del torto, correggete il tiro. 8. Let go of perfectionism, liberatevi del perfezionismo. 9. Let go of self-limiting benefits, smettete di autolimitarvi da soli. 10. E ultimo, stop mismanaging your emotion, smettete di gestire in modo sbagliato le vostre emozioni.